sì che feci, né sento odore, gelosa smaga, deluso amore, mi straccian l'alma, io non ragiono, dale il perdono, io non avrò, vuole affuggirla, non ho potuto, dall'ir raspinto, son qui venuto, orché lo sdegno ho disfogato, me si augurato rimorso, no. Ti fa